leggero battito d'ali di una farfalla sia in grado di provocare un uragano dall'altra parte del mondo. È una teoria affascinante e per certi versi più che spiegabile, l'effetto farfalla, no? Una azione insignificante che può creare un concatenarsi di azioni collaterali con conseguenze sconvolgenti. Beh, la storia che stiamo per raccontarvi è un caso del genere, eventi apparentemente privi di significato che si intrecciano tra loro, che portano a conseguenze incredibili. Tutto in questa storia è collegato, anche le cose più impensabili. Oggi vi raccontiamo di come fu vendicata la morte di Ernesto Che Guevara, ma soprattutto di come una donna sia diventata protagonista di uno dei più assurdi intrecci della storia. Lei si chiamava Monica Ertl e il suo appuntamento con il destino ha una data ben precisa: 1° aprile 1971, ma non c'è niente da scherzare. Amburgo, Germania, 9:40 del mattino. Una elegante donna dagli occhi azzurri entra nell'ufficio del console boliviano Roberto Quintanilla. Dopo una breve attesa nell'anticamera, lui la riceve. L'incontro dura pochi istanti. Si trovano faccia a faccia, incrociano gli sguardi. Lei, senza dire una parola, estrae una pistola dalla borsa e spara. Lui non ha neanche il tempo di reagire, si accascia a terra e muore. Nella fuga lei lascia dietro di sé una parrucca, la borsetta, la pistola utilizzata per l'omicidio e un pezzettino di carta. Su questo foglio c'è scritto: Victoria o muerte. Pianificare, eseguire, colpire, dileguarsi. Tutto come da manuale di guerriglia urbana. 100 o più volte l'emissaria dell'esercito di liberazione boliviano si era immaginata di annientare Quintanilla. Temprata dalla lotta, aveva avuto una giustificazione romantica per l'omicidio: uccidere per amore della rivoluzione. Con queste parole Jürgen Schreiber, nel suo libro La ragazza che vendicò Che Guevara, presenta Monica Ertl. Però non fatevi ingannare, la storia non è quello che sembra. Sì, è una rivoluzionaria lei, ma è il senso della sua rivoluzione è più ampio di quello che voi potete immaginare, perché la sua storia prende il via da una serie di eventi molto precedenti a quel giorno del 71. Risalgono addirittura a prima che lei nascesse. Dobbiamo tornare alla Germania di Adolf Hitler per poter capire. Non solo, la nostra storia passa anche attraverso la rivoluzione cubana e tocca anche gli anni di piombo italiani. È una lunga serie di eventi che si concateneranno fino a portarci inesorabilmente all'assassinio di Amburgo. La nostra storia inizia con un regalo, una Leica 13, una delle prime macchine fotografiche della storica azienda. A ricevere questo regalo è un giovane alpinista tedesco, si chiama Hans. Il padre gli regala quella macchina fotografica perché vuole che lui immortali le montagne che scala. E in quel momento il futuro di Hans cambia. Grazie a quel regalo nascerà in lui la passione per la fotografia, passione che lo porterà a diventare uno dei più fidati reporter di Adolf Hitler. Hans Ertl è quello che diventerà il padre di Monica. Lui non è uno qualunque. Prima di avere a che fare con i più alti livelli del governo nazista, era stato un alpinista, un esploratore, uno scrittore, un inventore, un antropologo, un cineasta. Inizia filmando eventi sportivi come i Giochi Olimpici di Berlino del 1936, quelli nei quali la grande regista di tutto era Leni Riefenstahl. Lui è un bravo reporter e determinato. Insomma, le sue capacità attirano le attenzioni delle alte sfere. Viene notato dal caposquadra dell'SS Eberhard van Gauff, lo arruola, lui ha 31 anni, lo manda al fronte per il cinegiornale Wochenschau. La guerra è una grande avventura per lui, insomma raggiunge la notorietà, riprende truppe in azione, filma combattimenti a terra, ma anche combattimenti in aria, sale su un biplano sul Mar d'Avos tra la Russia e l'Ucraina, registra gli scontri sotto il fuoco delle mitragliatrici e insomma fa strada. Verrà invitato a ritrarre gli alti dirigenti del Partito Nazionalsocialista, il fotografo personale del Führer si chiama Heinrich Hoffmann, ma Hans è tenuto in grande considerazione, gli viene chiesto di documentare le operazioni del reggimento di Rommel, la volpe del deserto, nella sua traversata per Tobruk in Africa. Nell'anno precedente la nascita di Monica, Ertl escogita per il film Olimpia di Leni Riefenstahl la cinepresa danzante, sperimenta con carrellate, gira riprese subacquee mozzafiato al trampolino dei tuffatori. È l'artefice di prospettive che contribuiscono ad alimentare lo stato di ebbrezza collettiva. Per il salto con gli sci a Garmisch, il meticoloso operatore si allaccia la cinepresa intorno alla pancia e con fare temerario percorre il trampolino spiccando il balzo. Tanto basti per dare un'idea della sua statura di sportivo. Spesso è difficile sopportare simili talenti multipli. Ertl aveva una presenza che intimidiva, una fama il cui peso, sommato a quello della sua onnipotenza, gravava sulle spalle delle figlie. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, con la caduta del Terzo Reich, Ertl lascia la Germania. Lui non rischia veramente, però comunque preferisce salvaguardare la famiglia. Va in Cile, registra anche un documentario lì. E poi nel 51 si stabilisce a Cinquitania, in Bolivia, siamo a 100 km da Santa Cruz. Compra una proprietà di 3.000 ettari, costruisce una casa letteralmente con le sue mani e comincia una nuova vita con la moglie Aurelia, su tirolese. La coppia ha 4 figlie, Monica la maggiore che ha 15 anni e deve fare i conti con questo padre ingombrante, dalla personalità forte, che peraltro aveva sempre desiderato un figlio maschio, e lei che fa di tutto per compiacerlo, si veste perfino da uomo e lui modella la figlia a sua immagine, barca, canoa, arrampicata, cavallo, ovviamente fotografia. È una vita dura nella quale il padre è la stella fissa da seguire. A metà degli anni 50 gli Ertl si trasferiscono alla Paz, capitale della Bolivia. Lo stesso anno lui, Hans, intraprende una spedizione nella giungla alla ricerca di Paititi, che è una leggendaria città perduta del popolo Inca. Insomma, attraversa un tratto di foresta vergine, porta con sé Monica e la sorella minore Heidi. Con le riprese fatte durante la spedizione realizzerà un film. Nella sua soffocante personalità, il padre di Monica esigeva di essere adorato. In uno dei suoi resoconti di viaggio, la figlia maggiore annota che il suo anziano signore non gradiva che gli si ricordasse che aveva passato i 40 anni e che aveva figlie già tanto cresciute. Monica ammirava il suo modo di agire risoluto e compassato, osservando come in pochi potevano tenergli testa nelle regioni selvagge che esplorava assieme a lei. Padre e figlia gustavano il piacere del brivido, scivolando in canoa oltre le foci di fiumi che scaturivano dall'ignoto. Monica avrebbe voluto essere alla sua altezza. Per capire, insomma, questo complicato rapporto di Monica col padre, bisogna anche fare un passo indietro, perché lei non ammira il papà, ha una venerazione per il papà. Immaginatevi questa ragazzina appena adolescente, strappata dal suo mondo, che è la Germania, che deve ricominciare tutto in un paese lontano in tutto e per tutto dalla Germania, la Bolivia. Soffre parecchio di questa cosa, è soggetta a veri e propri sfoghi isterici. Oggi si parlerebbe di attacchi di panico, viene ricoverata. Il padre, che già di suo è una figura carismatica, diventa il suo unico punto di riferimento. Lei, Monica, eredita la passione per l'avventura, per la fotografia. Viene a contatto anche con aspetti molto meno nobili, perché lei cresce, insomma, in questo circuito chiuso e razzista dei tedeschi di La Paz, che sono una comunità di ex nazisti in quel momento, composta da membri come Klaus Altmann, che Monica chiama affettuosamente zio Klaus. Il vero nome di Klaus Altmann è Klaus Barbie, è conosciuto in Francia come il macellaio di Lione, uno dei più pericolosi gerarchi nazisti sfuggiti alla pena di morte, al cappio, ai processi che si fecero da Norimberga in poi. Ecco come Giorgio Oldrini descrive Klaus Barbie. Oldrini è l'inviato dell'unità in America Latina tra gli anni 70 e gli anni 80. Klaus Barbie era stato un dirigente della Gestapo, soprattutto a Lione, dove aveva condotto con particolare ferocia la lotta contro il movimento di resistenza francese. Aveva tra l'altro torturato a lungo e assassinato il capo del Partito Comunista Clandestino, e poi dopo la guerra, fino alla fine del nazismo, era scappato in America Latina, e il padre di Monica Hertzl era stato lui a favorire Klaus Barbie quando era arrivato perché trovasse un lavoro, e quindi era considerato appunto di famiglia, tanto che la Monica lo chiamava zio, lo zio Klaus. E non dimenticatevi di Klaus Barbie, perché tornerà nella nostra storia. Intanto nel 58 Monica, a 21 anni, si sposa con un ingegnere tedesco trapiantato in Bolivia, si chiama Hans come il padre, guarda caso, però è un uomo taciturno, introverso, non particolarmente attraente, di famiglia ricca, è in grado di garantirle una vita agiata, però questo matrimonio è il primo vero elemento di rottura col padre, che non ha prova le nozze, non si presenta addirittura alla cerimonia. È difficile capire i motivi del suo dissenso, ma è chiaro che c'entra qualcosa del suo rapporto con la figlia. Da una parte lei lo vede come una figura di riferimento, e anche il padre vede ormai la figlia come figura di riferimento. La sorella minore di Monica dirà in un'intervista alla BBC che Monica era la figlia preferita, era l'unica che il padre sembrava amare davvero. Insomma, forse lui si sente portare via la figlia, forse non apprezza il genere, qualcosa tra i due si rompe anche il matrimonio, per la verità. Quasi subito dopo un anno lei confessa al padre che si è separata dal marito, e anche se poi legalmente la cosa avverrà molti anni dopo, nel 68. Siamo arrivati a un punto cruciale della nostra storia. Per comprendere tutto dobbiamo introdurre un altro elemento. Questa volta l'effetto farfalla di cui parlavamo parte da un discorso rimasto nella storia. Percorriamo i campi degli altri paesi del mondo che lottano per la loro libertà, sempre con lo stesso ideale, ovvero quello che si può ottenere attraverso la lotta rivoluzionaria, la speranza di un mondo migliore. L'ideale per il quale vale la pena rischiare la vita, sacrificarsi fino alla morte nei campi di battaglia di tutti i continenti del mondo. 25 febbraio 1965, siamo a Algeri e sta parlando il comandante rivoluzionario Ernesto Che Guevara. Fa un intervento molto duro, accusa l'Unione Sovietica e la Cina di applicare i principi del capitalismo agli scambi commerciali con i paesi in via di sviluppo. È il suo ultimo discorso pubblico. Il 31 marzo dello stesso anno, un mese dopo, il Che invia una lettera a Fidel Castro, dichiara di rinunciare ai suoi incarichi nella direzione del partito, rinuncia anche al suo posto di ministro. Che Guevara per un periodo fu ministro a Cuba, rinuncia anche al suo grado di comandante, rinuncia alla cittadinanza cubana. Insomma, la sua adesione al modello sovietico è crollata. Il Che è un uomo libero, non è un uomo di partito, e quando torna a L'Avana Fidel propone a Che Guevara di andare in Bolivia per sollevare la popolazione contro il regime del presidente Barrientos, insomma di portare la rivoluzione in quelle terre. Gli garantisce l'appoggio del partito comunista locale, gli garantisce la copertura da parte degli agenti segreti. Non si sa se questa è una trappola. Di fatto nell'ottobre del 67 inizia l'operazione Guevara, che guida un comando di rivoluzionari nella foresta boliviana, che è un ambiente insomma inospitale, malsano, e i guerriglieri scoprono di non avere nessun appoggio dai comunisti boliviani, forse per ordine di Mosca. Insomma, il Che viene ferito, viene fatto prigioniero e viene ammazzato dopo una lunga e penosa agonia. Qualcuno lo ha tradito. Quando muore Che Guevara, Monica Hertzl decide, anche per una forma di ribellione nei confronti del padre, di legarsi alla guerriglia boliviana. Prende il nome di Emilia e diventa la donna di Inti Peredo. Di Inti Peredo e Coco Peredo, che erano i due luogotenenti boliviani di Che Guevara. È un Cristo con la pistola, dice Monica di Inti Peredo. E lei si innamora di quest'uomo, dell'ideale che rappresenta. È difficile distinguere le due cose in questi casi. Insomma, Monica diventa Emilia, e il suo è evidente, è un rifiuto netto al padre, agli ideali che rappresenta. È andata proprio dalla parte opposta, quella che nella sua vita era stata la sua figura di riferimento in modo anche morboso, diventa il simbolo di qualcosa da combattere. Il padre rimane ovviamente sorpreso, caccia la figlia dalla sua tenuta, caduta, e il cambiamento della figlia peraltro avrà degli effetti importanti su di lui, mitigherà in parte il suo carattere. E intanto Monica, che adesso si chiama Emilia, smette di essere la ragazza appassionata per la macchina fotografica e smette anche di essere vicina a un padre che a sua volta era vicino al nazismo in qualche modo. Insomma, lei si è trasformata in un agente operativo della ELN, l'esercito di liberazione nazionale boliviano. Emilia aveva ricevuto un'educazione cattolica, non eccessivamente rigida, ma pur sempre cattolica. Nella militanza, la sua inclinazione religiosa, mai andata perduta, si unisce all'anticapitalismo e a quell'adesione ad alti principi etici che chi la conobbe allora non si stanca di ribadire. Emilia non rappresenta quella figura di combattente impegnata a confrontarsi con le tesi sulla massimizzazione del profitto o a dimostrare che lo spirito stesso del capitalismo porta in sé il germe della guerriglia. Conosce il lusso perché lo ha sposato. Ha fatto l'esperienza del prosaico mondo dei ricchi. Le è ben nota l'arroganza di cui è permeata l'immobilità della colonia tedesca. E conosce anche l'indigenza dei nullatenenti. Nella lotta per la liberazione vede più una vocazione che una sfida. Inti Peredo, l'amante di Monica, non sopravvive a lungo dopo la morte di Guevara. Gli agenti segreti del governo boliviano lo catturano, lo uccidono e con lui muore uno degli ultimi uomini del CE. C'è una persona ben precisa dietro alla loro morte. È l'uomo che ha posato trionfante nelle fotografie che ritraggono i loro corpi. Il colonnello dei servizi segreti boliviani si chiama Roberto Quintanilla Pereira. È proprio lui, insomma, stiamo per arrivare a quel giorno del 71 che ha aperto la nostra storia. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. Stiamo raccontando una vicenda molto complessa, la storia di Monica Hertle, un nome che non dirà nulla a molti di voi, ma è la storia di una donna che in qualche modo la storia la cambiò, che si è intrecciata con la grande storia. Abbiamo parlato di un rapporto particolare, quello col padre Hans, ex nazista in Sud America, persona e presenza ingombrante per via del suo carattere e anche appunto dei suoi controversi rapporti col regime, con tutti quei gerarchi che scapparono in Sud America subito dopo la disfatta. E insomma, un rapporto particolare che va dall'amore viscerale al rifiuto totale. E forse anche a causa di questo Monica diventa Emilia, diventa una guerrigliera dell'esercito di liberazione nazionale boliviano, quanto di più lontano dalla mentalità del padre potesse esserci. E alla morte di Ernesto Che Guevara e del suo luogotenente Inti Peredo, Monica giura vendetta. Esiste quella che si chiamava la maledizione del Che Guevara, cioè tutti quelli o molti di quelli che avevano avuto a che vedere con la cattura e la morte di Che Guevara hanno fatto nel corso degli anni pessime fini, a cominciare dal dittatore di allora che era René Barrientos, che cadde col suo elicottero qualche tempo dopo, fino ad arrivare al caso molto caratteristico della gente che per conto della CIA aveva seguito tutta l'operazione Che Guevara, che si chiamava Felix Rodriguez, che era un cubano, americano cubano, che tornato a Miami incominciò ad avere degli attacchi di asma violentissimi, lui che non ne aveva mai sofferto. Era come se l'asma che aveva tormentato Che Guevara fosse passata nel suo cacciatore. E questo era Giorgio Oldrini, che oltre a essere stato sindaco di Sesto San Giovanni è stato testimone di molti dei fatti dei quali noi stiamo parlando e parleremo. E a proposito della maledizione di Che Guevara, la storia arriva a Roberto Quintanilla Pereira, e l'abbiamo detto prima, il capo delle forze di sicurezza boliviane. Lui è quello che sta dietro alla cattura, all'uccisione del Che, peraltro è una figura veramente brutta da raccontare, perché lui non si è limitato a ammazzarlo, lo ha mutilato dopo la morte, gli ha mozzato le mani per poter dimostrare che si trattava veramente di lui, e questo gesto solleva un'ondata di indignazione in tutta l'America Latina, nel mondo direi. Insomma, le autorità boliviane decidono di metterlo al sicuro, lo allontanano dal paese e Quintanilla viene nominato console ad Amburgo e si ritorna in Germania in qualche modo, si trasferisce nella città tedesca con tutta la famiglia, si abitua alla nuova vita così diversa da quella del suo paese, ma c'è quest'ombra minacciosa su di lui, l'ombra che non lo abbandonerà, e i guerriglieri boliviani non possono raggiungerlo in Germania, non hanno i mezzi, non hanno il supporto logistico, ma tra questi guerriglieri ce n'è una che la Germania la conosce, non è boliviana, si chiama Emilia, ma in questo momento della storia potrebbe anche tornare a chiamarsi Monica, perché in Germania si deve tornare, lei è tedesca ed è molto motivata, perché Quintanilla non ha ucciso solo il grande Che Guevara, ma ha ucciso anche Inti Peredo, il luogotenente del Che e, come abbiamo visto, amante di Monica. Al 125 di Hellwigstrasse ad Amburgo c'è un piccolo parco con dei filari di aceri che decorano il viottolo principale e la stradina che porta alla sede del consolato boliviano, che è un edificio imponente di mattoni rosso opaco. È il 1 aprile 1971. Monica percorre quel viale, sale alla rampa di scale, entra nel portone, è molto tranquilla, in perfetto tedesco dice di voler visitare la Bolivia con un piccolo gruppo di viaggio, chiede di poter parlare al console, viene fatta accomodare nella sala d'attesa, si guarda attorno, osserva i quadri dell'ufficio, i mobili tirati a lucido, magari vede anche la sua immagine riflessa, è una bella donna lei, ha un fisico da indossatrice, occhi azzurri, quel giorno ha dei capelli diversi dal solito perché il nero corvino ha lasciato spazio a un ben più vistoso biondo che non nasconde la sua bellezza, forse la esalta, e forse il console, come dire, la riceve anche sull'onda di questo tipo di entusiasmo, però questa galanteria gli sarà fatale perché lui non fa in tempo neanche a darle il benvenuto, muore raggiunto da 3 colpi di pistola, nessuna colluttazione, nessun tentativo di resistenza, e un attimo dopo Anna, la moglie del console, sta raggiungendo l'ufficio, vede questa ragazza che esce, cerca di fermarla, lei perde la parrucca, la borsetta, la pistola, ma riesce comunque a scappare. Il ministro degli esteri tedesco reagisce con freddezza alla notizia della morte del console Quintanilla, che ha un passato non certo limpido. In fondo alla circolare che comunica l'omicidio si legge: espresso cordoglio all'ambasciata di Amburgo alla Paz solo qualora richiesto. Nessuno dei 76 consolati di Amburgo mette le bandiere a mezz'asta. E sembra incredibile che qualcuno sia riuscito a introdursi armato all'interno del consolato, abbia ucciso il console, si sia dileguato nel nulla, però è successo. Ovviamente Monica non ha fatto tutto da sola, dietro di sé lei lascia la borsa e dentro questa borsa viene trovato un biglietto con su scritto Vittoria o Muerte ELN, la firma dell'omicidio, però c'è dell'altro. La pistola utilizzata per l'assassinio ha fatto un percorso molto particolare, e lo abbiamo detto, questa è una storia fatta di tanti elementi che partono da lontano e finiscono poi con legarsi indissolubilmente alla figura di Monica. La Colt Cobra 38 Special usata per uccidere Quintanilla ha una storia tutta sua che ha origine in Italia, viene da Milano e non è stata comprata di nascosto come spesso accade in questi casi, magari da qualche malvivente, no, la pistola è di proprietà di Gian Giacomo Feltrinelli, il noto editore amico di Fidel Castro. L'elemento di incontro è Osvaldo Peredo, perché Osvaldo Peredo era stato legato sia a Feltrinelli sia alla Monica Hertler, non solo perché appunto lei era stata la donna del fratello, ma anche perché poi dopo la morte di Inti Peredo era stato Osvaldo Peredo a diventare un po' il leader di questo gruppo guerrigliero, l'Esercito di Liberazione Nazionale della Bolivia, aveva tentato di far rivivere la guerriglia in un posto che si chiama Matteo Ponte, senza successo, ma lì appunto si era incontrato con la Monica. Qualcuno ipotizza che anche avessero poi avuto una relazione amorosa oltre che politica, e Osvaldo appunto aveva conosciuto bene Feltrinelli, quindi era stato il tramite dell'incontro tra i due. E dopo l'omicidio Monica scappa con Peredo, torna in Bolivia, sa perfettamente di essere in grave pericolo, il governo boliviano non è disposto a lasciare impunita la morte di Quintanilla, la vendetta porta vendetta, Monica forse potrebbe andare in un altro paese più al sicuro, sceglie di non farlo, di rimanere con le ultime frange della guerriglia armata, e questa scelta le sarà fatale perché il destino la sta aspettando, e il destino a volte è inesorabile. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. La storia di Monica Hertel è arrivata alle battute finali e lei lo sa perfettamente, anche perché dopo l'omicidio di Quintanilla il governo boliviano ha messo sulla sua testa una taglia di $20,000, che sono una cifra altissima, esorbitante per l'epoca. Monica si ricongiunge alla guerriglia armata dell'ENL, si dà alla clandestinità, vive per quasi 2 anni come una fuggiasca, si nasconde in rifugi precari nella parte povera di La Paz. Malgrado la situazione, lei non perde la sua determinazione, sta progettando un nuovo attentato. E già, perché Quintanilla ovviamente non era l'unico responsabile della morte del Che, ci sono altri che hanno avuto un ruolo chiave in tutto questo. Ralph Shelton, per esempio, il capitano maggiore dei Berretti Verdi, le forze speciali dell'esercito degli Stati Uniti, il 2 maggio del 67, cioè 6 mesi prima dell'omicidio di Che Guevara, Shelton arriva in Bolivia per addestrare 1500 soldati locali. E lo scopo è quello di preparare gli uomini all'arrivo dei guerriglieri. Shelton è un duro, è stato più volte al fronte, anche oltre le linee nemiche, ma non conosce il modo di combattere della guerriglia, non conosce il territorio sul quale avverrà lo scontro, chiede una consulenza a qualcuno che ne sa più di lui, qualcuno che conosce il nemico e il territorio. E l'uomo che dà la consulenza agli americani, a Ralph Shelton, è Klaus Barbie, il macellaio di Lione, quello del quale abbiamo già parlato in quanto amico del padre di Monica. Barbie ha fatto carriera, adesso sta lavorando con i servizi segreti boliviani. Lo zietto aveva buone ragioni di temere la giovane Hertel. Monica aveva conosciuto a Cuba un giornalista francese amico di Che Guevara di nome Regis Debray. Cuba era il posto più sicuro per covare piani di rivolta e lì discussero su come guadagnarsi la solidarietà dei paesi esteri. Il rapimento del criminale di guerra avrebbe assicurato all'ELN l'attenzione internazionale. Monica e Debray stanno progettando il rapimento dello zio Klaus. Klaus Barbie però è uno che ne ha viste di tutti i colori, è un uomo furbo, peraltro è protetto dalle alte sfere, si aspetta di essere preso di mira, anzi usa se stesso come esca per fare cadere la nipotina, per fare cadere Monica in un'imboscata. E la sera del 12 maggio del 73 Monica viene intercettata dai reparti speciali boliviani in un quartiere povero alla periferia nord di La Paz. Muore in uno scontro a fuoco, forse viene catturata ancora viva, si dice sia stata torturata e poi uccisa dallo stesso Klaus Barbie. Sono congetture, non lo sapremo mai, le circostanze della sua morte non verranno mai chiarite. Hans Hertel era convinto che Klaus Barbie abbia avuto un ruolo importante nel attirare Monica nella trappola finale. Tanto che poi dopo anche a Klaus Barbie lui si era rivolto perché ridessero il cadavere della figlia una volta che era stata assassinata. In un cimitero di La Paz si trova ancora oggi una pietra con inciso il nome Monica Hertel. La roccia viene dalla cima del monte Chacaltaya, che è una vetta che supera i 5.000 metri d'altezza. È stato Hans, il padre, a portarla lì, ma sotto quella pietra non c'è nulla. I resti di Monica non sono mai stati consegnati al padre, che di fronte alla morte in qualche modo si riconcilia, fa appello alle autorità per poter dare sepoltura a quella figlia così amata, dalla quale si era staccato in maniera così brutale. Forse il corpo di Monica è finito in una fossa comune, o forse è stato fatto a pezzi, come dicono alcuni, abbandonato nella stessa giungla dove aveva trovato alla fine il Ernesto Che Guevara. Hans non lascerà più la Bolivia, passerà il resto della sua vita a filmare documentari. Muore nel 2000 a 92 anni. Nell'87, 20 anni dopo la morte di Che Guevara, Klaus Barbie sarà instradato in Francia, processato per i crimini commessi durante la guerra. La giuria, tra le altre cose, lo riterrà colpevole dell'arresto e della tortura di oltre 14.000 membri della resistenza francese, dell'invio di 44 bambini ebrei in un campo di sterminio, e viene condannato all'ergastolo per crimini contro l'umanità. Morirà di cancro nel 91 a 77 anni, dopo aver scontato solo 4 anni di carcere. La storia di Monica Ertl è raccontata in alcuni libri, pochi a dire il vero. Uno lo ha scritto un giornalista tedesco, si chiama Jürgen Schreiber, in italiano si chiama La ragazza che vendicò Che Guevara. Avete sentito degli estratti di questo libro durante la puntata. La vita ha strani modi per sorprenderci. La storia di Monica Ertl è un esempio di questa imprevedibilità. È lei, figlia di un nazista scappato in Germania, diventa assassina, diventa terrorista. La violenza non è mai giustificabile, naturalmente, però lei è comunque un personaggio romantico. Intraprende la via della guerriglia e avrebbe potuto farne a meno. Combatte per i suoi ideali, rinuncia a tutto, si ribella alle sue origini, taglia un cordone umbilicale che era molto forte, e la sua vita, la sua storia mostrano a tutti come la rivoluzione in qualche modo sia in grado di superare i confini geografici o mentali, di quanto la rivoluzione possa essere un fenomeno globale, soprattutto se c'è di mezzo un personaggio della caratura di Ernesto Che Guevara, del Che. Se volete mandare dei commenti sapete dove trovarci. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Paolo Buzzone. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.